A bordo campo di Dario Ricci. Io in vita mia non mi sono mai seduto e dico mai con delle persone a combinare le partite, mai, e non ho mai pensato nell'anticamera del cervello di poter truccare una partita, perché innanzitutto non so come si fa a truccare una partita, non ci ho mai pensato e non mi sono mai seduto con nessuna persona. Io sono disposto ad andare in una piazza, è una parola forte quello che dico, se ho fatto una roba così io mi ammazzo davanti a tutti quanti, perché non sono questo. La voce l'avete riconosciuta tutti, è quella di Rino Gattuso, il nome eccellente, il più illustre tra gli ultimi coinvolti nell'ultima tranche dell'inchiesta della Procura di Cremona, Last Bet contro le scommesse illegali nel nostro calcio. Ebbene, staremo a vedere quello che l'inchiesta rivelerà e quale sarà la posizione di Gattuso, di Brocchi, degli altri indagati e anche dei quattro arrestati. Oggi a bordo campo però torniamo sul tema della lotta alle scommesse illegali, perché pochi giorni fa abbiamo raccolto delle testimonianze a mio parere particolarmente significative. A Bruxelles abbiamo avuto l'opportunità di incontrare quelli che sono i protagonisti di questa vicenda sul fronte delle procure, coloro che stanno muovendo le fila ma anche tirando le somme di queste inchieste. E mi sembra importante sentire queste testimonianze perché ci permettono di capire quali sono gli strumenti attualmente a disposizione del legislatore ma anche degli inquirenti per poter far fronte al fenomeno del match fixing e soprattutto quali possono essere le prospettive ultime di questo duello tra lo sport pulito e lo sport illegale, da cui dipende il futuro, forse non solo, dello sport. Allora, partirei proprio dall'intervista che abbiamo realizzato a Bruxelles con Roberto Di Martino, il procuratore capo di Cremona e il motore primo dell'inchiesta Last Bet. È interessante perché Di Martino in questa conversazione ci dà proprio un quadro generale di quelli che sono gli strumenti attualmente in campo e di quelli che possono essere gli sviluppi legislativi a livello europeo per arrivare alla definizione di strumenti e quindi di risultati sempre più efficaci. Sentiamo. Beh, la cosa più importante è che ci sia un intervento delle istituzioni europee in modo che la legislazione sia sportiva, ma soprattutto quella, diciamo, penale, nei vari stati venga uniformata e quindi si riesca a esercitare un maggiore controllo, si riesca a operare assieme, a operare, diciamo, in simbiosi, cosa che adesso non si può dire che avvenga. Insomma, ci sono difficoltà, ci sono discipline diverse. Se si muovono gli organismi europei, l'Italia non può rimanere indifferente, insomma, il fenomeno può darsi che abbia una soluzione un pochino più soddisfacente di quella che in questo momento francamente tale non è. Ha toccato con mano a lei le discrepanze tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, come poter raccordare questi due binari certo non paralleli? Beh, io ho parlato soprattutto del fatto specifico dell'omessa denuncia, perché è un incentivo all'omertà, secondo me, è un incentivo all'omertà nella misura in cui sono persone maggiormente coinvolte, persone che non hanno nulla a che fare con il fatto che non hanno denunciato. Allora, occorrerebbe che per coloro che non sono coinvolte nel fatto che non hanno denunciato venga gettato un ponte d'oro perché raccontino senza conseguenze questo fatto. Questo non avviene e praticamente nessun calciatore dice niente, insomma, questo è il problema, perché molti sanno senza essere coinvolti, capisci? Lei che da quel mondo, dal mondo dello sport, non proviene, si aspettava di metter mano in questo modo, di trovare quello che ha trovato, insomma? Ma l'inchiesta è nata un po' per caso, per dire la verità, no? questo sonnifero, questo tranquillante messo nell'acqua e calciato, una cosa bizzarra, mai più vista, unica. Però è stato lo strumento che ci ha consentito di scoperchiare questo pentolone. Non è che mi abbia provocato, diciamo, dei disagi, perché sono abituato, ho vissuto sempre con inchieste di queste dimensioni. Però devo dire che all'inizio non me l'aspettavo effettivamente, insomma, pensavo più a una cosa contenuta, insomma, pensavo di che arrivassimo a questo punto, né che il clamore che abbia avuto fin dall'inizio questa inchiesta. Speriamo che serva a qualcosa. Inchiesta di Cremona, certo, ma sappiamo bene, ahi noi, che non solo la procura di Cremona sta lavorando sul tema del match fixing, anche particolarmente attiva è la procura di Bari, e l'occasione del convegno europeo dedicato proprio al match fixing è stata anche quella di poter incontrare Ciro Angelillis, il procuratore di Bari, che è uno dei cardini del filone d'inchiesta nel capoluogo pugliese. Nell'incontro col dottor Angelillis mettiamo a fuoco un altro punto importante: la prossima definizione di una procura europea antifrode, che può essere veramente lo strumento in più per poter operare anche contro il match fixing. Sentiamo. Per quanto riguarda, diciamo, le inchieste baresi, sono a buon punto, molte posizioni sono state definite, molte sono state definite con patteggiamenti, altre sono in corso di trattazione al dibattimento, ci sono i processi in corso e poi naturalmente ci sono le inchieste aperte delle quali, insomma, non posso parlare. Ecco, rete sovranazionale, le chiedo, stiamo assistendo a un momento in cui nel calcio italiano soprattutto entrano anche nuovi investitori dall'estero, capitali esteri, alla luce di quella che è la sua esperienza, questo ingresso di soggetti nuovi ed esterni può portare anche a una maggiore trasparenza del sistema? Ma insomma, io penso che la trasparenza del sistema non dipenda da questo, la trasparenza del sistema dipenda da chi fa le norme, da chi fa le leggi, sia in ambito sportivo e sia in ambito ordinario, diciamo così, e credo che ce ne sia bisogno di norme che garantiscano trasparenza, perché succede che il problema non è limitato assolutamente al match fixing, perché sono ormai, diciamo, comprovate le contiguità di questo fenomeno con l'interessamento della criminalità organizzata, quindi è un problema, diciamo, di dimensioni amplissime di cui il legislatore, a mio parere, deve tenere conto e deve mettere mano, insomma, a riforme importanti. In quest'ottica la Procura europea può essere una soluzione o uno strumento? Ma certo, la Procura europea può essere uno strumento, una soluzione al contempo, naturalmente non solo per questo fenomeno, ma per tutti i fenomeni, diciamo, di crimine transnazionale di cui oggi siamo pieni, insomma, in Italia come negli altri paesi europei. Ormai la criminalità organizzata si è evoluta, non ragiona più come 20 anni fa, ragiona con una mentalità di tipo imprenditoriale, e si è adeguata, diciamo, alla globalizzazione del mercato. E quindi ovviamente anche per la criminalità organizzata non esistono più i confini nazionali, pertanto l'idea del procuratore europeo sarebbe assolutamente opportuna. Il nostro calcio, secondo lei, è pronto per essere trasparente? Abbiamo visto in molti filoni delle varie inchieste in primo piano spesso l'omertà unita alla paura spesso degli inquisiti o dei protagonisti. È un calcio che, manifestando questa voglia, è però pronto poi a vivere una nuova fase di rigenerazione? Guarda, io sono ottimista, io dico di sì, la mia risposta è sì, perché la mia sensazione è che ci sia questa volontà, questa predisposizione da parte del nostro calcio, da parte dei nostri dirigenti, da parte dei calciatori, delle nostre squadre, anche perché io faccio il confronto con episodi analoghi che accadono in altri paesi d'Europa, nell'Europa dell'Est, ma anche in altri paesi d'Europa centrale, e devo dire che, insomma, il confronto non è edificante. Io penso che la parte marcia è ancora relativa, è ancora limitata, e quindi se ci diamo una mossa riusciamo a risolvere il problema. ma anche ad analizzare il terzo vertice del triangolo delle procure, ed è la procura di Lugano, Svizzera, che è l'altra sponda dell'inchiesta di Cremona, perché abbiamo visto quanti dei protagonisti di questa inchiesta siano passati e facciano riferimento proprio alla Svizzera. Ebbene, Nicola Corti, procuratore di Lugano, è proprio il referente svizzero del dottor Di Martino. Con lui abbiamo analizzato i limiti di una legislazione, quella elvetica, che invece non ha ancora esteso il concetto reato di truffa a reati di questo tipo, cioè legati al mondo dello sport. Una legislazione estremamente garantista, ma che per alcuni aspetti non si è ancora dotata di tutti gli strumenti per poter intervenire efficacemente. Spetta quindi al legislatore poter mettere a punto delle norme in questo senso più efficaci. Sentiamo Nicola Corti. In realtà le lacune sono state definitivamente riscontrate l'anno scorso e nel corso di quest'anno. Sono lacune che sono volute da un'interpretazione rigida delle norme esistenti, contrariamente alla soluzione che è stata scelta in Germania, ovvero non attendere lo sforzo legislativo e verificare la massima tenuta possibile delle norme vigenti. Ora, la scelta adottata dalle alte corti svizzere vincola le autorità giudiziarie svizzere e semmai stimola il legislatore svizzero. È vero che la via più semplice per tutti, e in un'ottica anche di uniformizzazione della risposta a livello europeo, è quello, semmai tutti quanti, di introdurre norma specifica che sappia ben fornire risposta a questo problema specifico. Si può dire che da Lugano guarda Bruxelles con un po' di invidia, perché è vero che c'è il problema, però quantomeno nella definizione degli strumenti l'Europa è un po' più avanti. Beh, diciamo che nella lentezza elvetica c'è tutta la capacità di guardare con calma l'efficacia delle soluzioni già adottate. Poi si può essere rapide nel seguire buoni esempi o nel trovare dei correttivi. Risposta diplomatica che le strappa anche un sorriso. Purtroppo non ci fa ridere invece la situazione del calcio europeo che anche oggi abbiamo descritto. Ecco, dal punto di vista tecnico, normativo, strumenti efficaci da mettere a punto alla luce della sua esperienza, della sua collaborazione con la Procura di Cremona? In realtà effettivamente l'introduzione di una norma specifica sulla frode sportiva è assolutamente necessaria, e ritenere fattore criminogeno il mondo delle scommesse non sufficientemente controllato e senza strumenti di cooperazione internazionale è un inizio di un chiaro segnale di sconfitta, ciò che non ci possiamo permettere. Beh, insomma, come avete sentito, nelle procure italiane ed europee non si sta lavorando solo sotto il profilo delle inchieste e delle indagini, ma anche per mettere a punto delle legislazioni più efficaci che possano garantire la trasparenza del nostro sport. Ora prendiamoci un attimo di pausa, poi torniamo insieme qui a Bordo Campo. A Bordo Campo. Non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana. Non scrivo niente particolare, solo c'è gente che scrive di tutto. Io non so se avete visto, ho meno di 1000 tweet, non scrivo niente particolare. Un buongiorno, una buona sera e un po' di foto basta. Che maschio sei? Nos sorprende hoy, aunque ya estaba dando alguna señal, que Mauro Icardi subió un tweet donde te declara su amor, dice te amo. A ver, primero, ¿qué te pasa a vos cuando lo lees? Segundo, ¿te une alguna relación? Que por primera vez se me tildó el tweet y... Ahora, ¿cuál es tu relación con Mauro Icardi? Bueno, es una relación que, bueno, nos conocimos por el fútbol. Nunca estuve en ningún lado a solas, pero una relación de amistad. Il grande classico di Renato Zero, la voce di Wanda Nara. Beh, l'avete capito, oggi nella giornata del derby di Milano ci vogliamo un po' divertire in vista del derby, ma anche analizzare una storia d'amore, un triangolo che ha ricadute importanti su quella che è la considerazione di un campione del nostro calcio, anzi di almeno due campioni del nostro football, e ci aiuta anche a capire come questi campioni utilizzano i social network. Beh, l'avete già capito, parliamo del triangolo amoroso tra l'interista Mauro Icardi, il centravanti arrivato quest'anno dalla Sampdoria e ai lui noto soprattutto per gli infortuni finora più che per i gol, Wanda Nara, l'ex moglie di Maxi Lopez, il centravanti del Catania, che dopo aver lasciato il marito adesso è fidanzata proprio con lo stesso Icardi. Una storia che ha avuto in Twitter il social network principe, perché Icardi e Wanda Nara hanno raccontato tutto a forza di twittate, il loro corteggiamento, il loro amore. E allora a noi ci è venuto in mente di chiamare a bordo campo Andrea Barchesi. Ben trovato, Andrea. Salve a tutti, grazie. Beh, Andrea lo conoscete, è l'amministratore delegato di Reputation Manager, società specializzata nell'analisi e nella valutazione della reputazione di tutti noi, di fatto, che utilizziamo i social network per cercare di capire come la nostra immagine cambia attraverso l'interazione con i social network. Beh, Andrea, direi che Mauro Icardi e Wanda Nara con questo tweet ne hanno combinati di guai. Ma direi di sì, anzitutto siamo di fronte a un fenomeno interessante, questa è una Twitter love story ed è interessante dal punto di vista anche sociale, hanno combinato un discreto pandemonio, nel senso che le ripercussioni sono molto alte, dovute anche al fatto che hanno moltissimi seguaci. Mauro Icardi ha 320.000 follower, quindi ogni cosa che scrive viene letta potenzialmente da 320.000 follower, e Wanda Nara ne ha qualcosa come 1.400.000. Tra l'altro vale la pena sottolineare che entrambi utilizzano chiaramente lo spagnolo, loro lingua madre. C'è maggiore ricettività magari in Sud America o nel mondo iberico per i social network, oppure sono proprio i personaggi che pesano e quindi attirano follower? Allora, in questo caso sono maggiormente personaggi, il mondo dello sport e del calcio sta attirando una grandissima attenzione da parte dei social media. Ecco, allora proviamo un po' a ricostruirla cronologicamente questa storia, tra l'altro con alcuni dati che proprio Reputation Manager ha elaborato e che ritrovate anche sul nostro sito su radio24.it alla pagina di A Bordo Campo, storia che di fatto nasce il 14 novembre scorso con la prima twittata di Mauro Icardi. Et Mauro Icardi, te amo, nunca me sera sencillo desir lo che siento, eccetera eccetera. Insomma, Icardi si dichiara dopo delle vacanze a tre, no, passate quest'estate con Maxi Lopez e Wanda Nara, quando i due erano ancora sposati, Icardi era un amico di famiglia, poi alla fine succede il patatrac. Lì come reagiscono i follower, Andrea? Ma è stata esplosiva la reazione, abbiamo subito 7500 retweet, ovvero 7500 persone hanno rimandato lo stesso contenuto a tutti i loro follower, quindi era un'esplosione virale. E poi c'è anche la risposta di Wanda Nara, che come sentivamo nell'intervista all'inizio diciamo non cede subito a questa corte, no? Quindi che mi corazon sta colgando en tu manos, così Wanda prova a rispondere al corteggiamento di Icardi, e la reazione dei follower? Altissima anche in questo caso, circa 6.000 retweet, ed è anche interessante vedere proprio il calore che ha preso questa vicenda, un po' come se fosse una moderna telenovelas. Eh sì, e qui siamo appena intorno al 20 novembre, poi succede che i due continuano a cinguettare, si avvicinano, di fatto ormai sono una nuova coppia, e i follower un pochino si stancano, anche perché Icardi qualche golletto in più dovrebbe farlo, anche se è infortunato e solo da un paio di settimane è tornato a disposizione di mister Mazzarri. Cosa vuol dire? Che di fatto, per carità, simpatico il ragazzetto innamorato, ma che faccia il calciatore e faccia pure i gol, questo gli chiedono i follower? Allora, fondamentalmente l'audience ancora che hanno è elevato, perché l'ultimo che ha fatto, ad esempio, all'inizio di dicembre ha avuto sempre 741 retweet. Detto questo, è chiaro che si sta esponendo nel senso che sta concentrando la sua identità su un fatto esterno alla sua professione. E chiaramente se i gol non arrivano, questo è un rischio. Devo dirti, te lo confermo da utente tutti i giorni del bar sotto casa, devo dire che di Icardi non è che si parla poi benissimo, tra chi magari a Twitter non è molto avvezzo, ma alle curve dello stadio ben di più. Sì, assolutamente. Fondamentalmente la cosa è assolutamente pericolosa, perché sta caricando una molla in pratica, e questa è percepibile proprio nei social network. Ecco, invece Bandanara che cosa sta incassando, al di là di quello che è l'aspetto emotivo della vicenda, da tutte queste twittate? Ma lei, diciamo che sicuramente ha un impatto minore, anzi in realtà la sua visibilità mediatica si sta sollevando. Il fulcro reputazionale della situazione è tutto su Icardi. Come potrebbe andare a finire dal punto di vista dei social network questa vicenda? Ora Icardi sta tornando in campo, vedremo che partita farà, però poi c'è una reputazione appunto che in qualche modo andrà ricostruita, o come si può gestire questo fenomeno? Come abbiamo detto in altre occasioni, questo è un fenomeno nuovo che necessita di essere gestito. L'errore fondamentale è trattare questo canale come se fosse il soggiorno di casa. Stanno mandando lettere d'amore in modo pubblico attraverso un social network. Di conseguenza, quindi, come dicevamo, si sta esponendo ad un rischio fortissimo che pesa sui risultati. Bisognerebbe controllarlo maggiormente, tenerlo più vicino ai valori della sua professione e quello che lui rappresenta. Non a caso ci ha provato anche Capitan Zanetti, finora direi la cosa migliore sarebbe togliergli l'iPad dalle mani a sto ragazzetto. Beh, forse sì, andrebbe maggiormente, diciamo, contingentato l'utilizzo di questo iPad. Il terzo protagonista della vicenda, che è Maxi Lopez, invece su Twitter non è presente. Potrebbe sembrare anche una scelta nobile, in realtà appunto è una scelta di campo. Che valore assume in questo triangolo, Andrea? Ma in questo triangolo l'assente è quello che purtroppo subisce i maggiori danni. Di conseguenza, quindi, non essendo presente non significa che tutti gli altri non ne parlano, quindi è un po' un assente che è presente nei commenti degli altri, in questi casi non fa mai bene. Quindi sarebbe meglio comunque scendere in campo anche su Twitter e che Maxi Lopez giochi la sua partita? Assolutamente sì, ovviamente tenendo i professionali e riportando la sua identità verso quelli che sono i suoi reali compiti verso il pubblico. Beh, Andrea Barchesi, intanto grazie perché ne abbiamo capito un po' di più, staremo a vedere come finirà questo triangolo amoroso, che di fatto triangolo ormai non è più, visto che Mauro Icardi e Bandanara fanno coppia, e quindi staremo a vedere. I migliori auguri alla nuova coppia e che ogni tanto si stacchino da Twitter. Mancano ormai poche ore al derby, Andrea, milanista o interista, per chi fa il tifo? Ma ancora da definire, per i più bravi, diciamo. Ah, risposta molto diplomatica, aspetto che la twitti sul tuo profilo. Allora, intanto grazie ad Andrea Barchesi, amministratore delegato di Reputation Manager, e lo ritroveremo spesso qui a Bordocampo, perché quest'anno ci vogliamo davvero divertire con questa commistione tra sport, calcio e social network. Grazie ancora Andrea per essere stato nostro grazie ospite. Grazie a voi. Anche per l'appuntamento di oggi di A Bordo Campo è tutto, un grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito. Ora GR24, poi l'appuntamento abituale con tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16:30 e il sabato mattina in replica alle 6:15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.